Canale 23, c'è qualcuno? Ma tu a chi vuoi? A chi c'è il sole? Nessuno, io ho acceso, sono neanche 3 minuti. Che ho pagato. E io sto salendo adesso perché il cane è voluto scendere giù presto oggi, dopo essere che non si sentiva bene, ha dovuto fare la cacca. Vuol dire non riuscivo a tenerla. Reggiangio così. Eravamo niente, poi andava alla porta, quindi ho capito, io che scendiamo. E ho approfittato andare in farmacia a prendermi dei medicinali che mi dovevano arrivare. Così almeno ho fatto l'ultima direttevo. Andiamo a vedere i medicinali, vabbè. E allora attore, tutto bene? Insomma, tiriamo avanti piano piano. Il Natalino l'avete saputo? Sì, certo. Non dovevo fare quella fine così. Lui ha sofferto troppo per curare troppi dolori ci aveva, non ce l'ha fatta più. Lo so che c'aveva troppi dolori, ma sicuramente qualcos'altro ci aveva. Guarda, io la tengo, la conoscevo bene. Era per quello, perché io accompagnavo io a fare tutti gli esami, tutto quanto. Oh signore, nella testa degli altri non ci siamo, c'è per le cose, questo è vero. Cosa dovevano cremare per fare qualcosa? Non lo so, non so nulla, la moglie non dice nulla e non lo so cosa. Se il funerale non me l'hanno fatto, hanno fatto una messa di suffragio. Già lo so, di quello già lo so. Però qualcosa dovrebbe metterlo in qualche modo. Ma già sceso giù al cimitero là? Non lo so, io so che era la Pemba, che era in camera mortuaria. E quella del coso era? Già lo so dove ci è andato. Ho fatto un autobiscietto quanto? È in camera mortuaria adesso, perché ho chiamato un'amica mia che lavora lì e mi ha detto che ce l'hanno loro. Ah, ce l'hanno loro dentro la camera mortuaria? No, in camera mortuaria ce l'hanno loro in camera mortuaria, però non lo so se è ancora lì o se l'hanno portato via adesso. Ieri l'ho chiamato. Strano. Lì sono in quei giorni, non si presenta nessuno, chiamano il comune e si arrangia il comune. Non so cosa dirti, ma penso che ci sono i fratelli pure, dai. Il comune poi ti chiamano, si presenta, se entro in 5 giorni non si presenta nessuno, poi ci sarà il comune, si arrangia il comune e poi ti chiama, chiameranno i fratelli se c'è qualcun altro, no? Non lo so come funziona, questo sa che è stato un colpo per me, perché eravamo amici, quindi è stato un colpo grosso. Un colpo per tutti, per chi non lo conosceva era un colpo per tutti, ecco cos'è, non doveva farla quella fine così. Io lo frequentavo proprio a Natalino, quando lasciavamo le ragazze ci trovavamo tutti a Sacro Cuore e uscivamo insieme, andavamo al pub, andavamo in pizzeria oppure stavamo lì a parlare, ci fumavamo la sigaretta, insomma eravamo sempre insieme. Lo so, conoscevo anche bene io, però a venire a fare la fine così, a farsi curare, non andava bene. Secondo me non è che si aiuta qualcuno. Insomma, i dolori erano troppi, lui lo dovevano chiamare a settembre, a metà settembre. A metà settembre per l'operazione aveva già fatto il pre-ricovero e non chiamava neanche, era sempre a dolore, ogni volta che ci sentivamo mi diceva già sono a dolore, non ve la posso più uscire, non ve la posso più e non mi chiamano, capito? Hanno tardato a chiamarlo, se l'avessero chiamato prima magari non sarebbe successo. Infatti. oggi ci vediamo all'ospedale, ci vediamo a tutti, ecco cosa è, tanto rapido, non era Giulia. Se ne frega all'ospedale. E con me non hanno fatto la stessa cosa. Mi dovevano chiamare, ho fatto il pre-ricovero, ero il primo che mi hanno fatto tutti gli esami, poi è arrivato il secondo. Io, guarda, ero il primo, quindi avrebbe dovuto chiamare a me per il primo, invece a me mi hanno saltato, mi hanno messo a riserva. Quando ho chiamato, perché non mi stavano chiamando, mi ha detto, guarda, lei è in riserva, se qualcuno rifiuta o non viene, chiamiamo lì, si tenga pronta la borsa, mi ha detto, perché se no, e poi sono passati altre 2-3 settimane, mi pare, non mi chiamavano mai, allora alla fine ho provveduto diversamente. Perché stanno alla lunga, ecco cos'è, stanno molto alla lunga a fare le cose. Loro non è, non è una fottinuta di come ti sei, come ti stai, ecco cos'è. E allora, cosa te ne frega loro? No, se ne vai pure a uno, ne vai pure a uno, di chi si, lo vedi come ti stai, se ne ha da buio. E come ti la sindrome di Stendhal, che praticamente hanno ammazzato la moglie, stava partorendo e aprendola gli hanno ammazzato il bambino. E si è vendicato da lui. Infatti così, diciamo che ne fai pure a qualcuno, dici sì. Ah vabbè, vedi che rigano tutti, rigano. Ah, se no li denunci. Ma la denuncia è bisogna qualcuno, bisogna. A che giocare giù la bete dell'altro giocano. E loro ti dicono che non c'è personale, e trovano sempre le solite scuse, che non c'è personale, che se no magari ne avrebbero fatto di più di interventi in una giornata, e invece così, senza personale, ma stanno facendo tutti i cubi adesso nella sanità, non può avere una camarati, perché se ti ammali a trovare un posto al CUP è un casino, non ce ne sono più posti al CUP, è tutto già vinto. Ah, lo so, sì, non so come funziona, ma lo so, sono un anno a gettendi che ci mettono dei medici nelle diabetologia, perché la piano piano si sottofuggendo. Ma scusa, tu non hai cercato di cambiarlo? Ho cercato, ho fatto, però non si può far nulla, non ce n'è, ho detto, non ce n'è medici. E quindi tu sei senza fare nessuna visita da molto? Un anno che non faccio visita, insomma, mi sta seguendo la mia dottoressa, il mio medico di famiglia. Purtroppo, cioè, se tu però hai bisogno di qualcosa in più, cosa fa? Cioè, non è che una dottoressa di famiglia ti può dirare di fare altra insulina o ti può cambiare la cura, non ti possono fare queste cose, non penso, perché se ci sono specialisti è per qualcosa. Quello è il fatto. E qualcosa me l'ha fatta la mia dottoressa, però io sono salito su e mi ha detto di andare adesso a fine mese. Devo salire a fine mese a sapere qualcosa. Dice che un medico ce lo metteva, anche se mi intrufisemmo. Ecco cosa è. A me mi ha detto di mollare il cardiologo, che il cardiologo lo stanno mettendo lì al centro di diabetologico, lo stanno mettendo anche il cardiologo. Quindi gli esami cardiologici se li fanno loro. Ma dove? Ogni paura che sa. Non vi credi che non è vero? Hai detto pure a me, l'hanno detto, non è vero. Certo, ho parlato con la signorina, con la signora, io, e mi ha detto che non è vero. A me me l'ha detto il dottore, mi ha detto il diabetologo questa cosa, che fra poco metteranno al cardiologo anche. Ah, fra poco, da due anni fa che lo so se c'era il bonillo, e non andare in borsa ancora. Non so cosa dirti, io a Lina non si sono più durata, chi non mi abbia detto che c'è cardiologa, che non c'era Mendoza, gli ha scritto che il paziente si è rifiutato di tornare a casa a prendere l'esame del sangue, cazzo, ma dimmi tu. No, quello... Io sto andando a quello di via... Cosa? Armando Diaz ci sto andando. Mi stanno seguendo lì. Quello è bravo. Quello lì lo vorrei io, cavolo. Quello è bravissimo. Solo che quest'anno non ne ho potuto fare perché mi sono dimenticato di prendere l'appuntamento. Ecco cos'è. Allora mi ha detto di chiamare da gennaio. Da gennaio per far la visita. Allora l'appuntamento te lo danno loro di volta in volta. La prima volta vai con il cucù, poi te li danno loro gli appuntamenti, dici ci vediamo fra 6 mesi, ci vediamo fra 3 mesi, capito? Sì, a me, ci vediamo fra un anno, devi andare a settembre, invece me ne seguo dimenticato a marzo di Giamalli a darmi l'appuntamento, e l'ho saltato. Te le devo segnare queste cose dal calendario come faccio io, ho tutti gli appuntamenti, prelievi di sangue, tutto quanto, ho tutti gli appuntamenti. Se no te ne dimentichi, poi invece scegliati del calendario, come guardi il calendario li vedi. Sì, no, infatti adesso la devo chiamare a metà gennaio, la chiamo e mi prendo direttamente l'appuntamento, mi prendo. Poi vediamo, tutto l'altro resto sto facendo piano piano. Io il 21 c'ho il prelievo alla Tenoce, poi andrò a ritirare il giorno dopo e poi il 27 c'ho la visita di Ambettucci. Ma stai andando al latte dolce, qua stai andando, mamma mia! Ucci! Cazzo! Ma ne gribato a me i chibi! In via Pasubio sto andando io a fare gli analisi! Almeno lì mi trattano i vermi, mi trattano! Ma io via Pasubio non so manco dove sia esattamente! La via dove c'è casa Serena, scendendo! C'è il laboratorio scendendo proprio, la casa Serena giù! Rimane giù, rimane, prima di arrivare alla via che sbocca. Ah ecco, capito, sì sì. Però quella via si biforca poi, praticamente c'è da una parte e dall'altra la via, quella che scende dritta. Sì, quella che scende dritta da casa Serena. Lì, qua, rimane lì. Devi andare un po' prima, perché se no trovi, perché fanno, aspetta, 13 persone solo con la USL. E come fanno la Tenoce? Che lo so, e quelli con la convenzione ne fanno pure. Io una volta ho pagato anche un bel di Naburo, perché erano molti esami, ma mi ha fatto pagare quasi 50 euro. Sono di invece là te li fanno tutti, gli esami che c'hai te li fanno tutti, senza bagarre. Io ne avevo un bel, una tessi, e me l'hanno fatti tutti senza bagarre. Io lo so, loro poi sono di dare sede, però quando è andato dolce, per dire, una volta mi ha fatto pagare perché ha detto che la sede non gli stava mandando i fondi e lì e loro avevano le spese, dovevano pagare il personale, dovevano pagare i reattivi e tutte queste cose qua. E quindi mi ha fatto pagare, mi ha detto mi dispiace ma devo farla pagare perché però non è giusto perché il problema tu non li devi scaricare i pazienti. Ma infatti, poi sono avviso che non ne più io. A me, quando ho preso una vena, una volta mi ha fatto. No, non sono buoni come devono essere, ma ce l'ha. C'è parecchio personale e ti trattano i momenti, sì, ecco cos'è. Non c'è il coso per l'urina, dovevi fare l'urina, ti danno il contenitore loro poi lì. Ah, ti trattano meglio, ti trattano. Allora io ogni volta che sono andato l'ho trovata subito la vera, però mi è successo una volta che mi si è fatto viola dove mi ha può succedere magari un ematoma, una cosa così, ma già mi è passato. A me invece altri che viola mi ha fatto, ma mi ha fatto a becca, ma mi ha fatto, ho visto che è andato più in chimica. mia figlia mi ha detto, guarda che c'è il Vesuvio, se vuoi farlo lì. Sono prendo l'appuntamento al Palazzo Rosa, devi mandargli le mail e poi ti chiamano loro. E proprio io ho portato alla Caiba un mese fa a fare le, a fare il prelievo del sangue. A Palazzo Rosa? No, a Stecca Bianca. Ah, io compreso. Nettuno gli aveva detto, ma mi aveva chiesto a me, in via Pasubio mi aveva chiesto, allora che vai, però devi andare presto, gli ho detto, dice no, arrivi che ci vanno per il vado lì, se ne chiedate tutti a pagamento da buio. Ho visto che c'era andato una volta lì. Però questi privati è un casino, gli danno le convenzioni e poi non le rispettano. Non rispettano chi non deve pagare, lo fanno pagare lo stesso. Non mi sembra una cosa legale. No, io sono sempre andato in via Pasubio e mi hanno trattato sempre bene, mi hanno trattato. Solo che devi arrivare almeno, io dico, arrivo sempre il secondo o il terzo, arrivo. Ma si può già preguscire ogni volta che vado a fare le analisi. No, ma è data di sempre bene. Non ho mai fatto di cose lì a Pasubio. E poi me le scarico io, me le scarico le cose direttamente. Con il, ti hanno il foglio, con il, devi avere, se c'è le mail gli dai le mail e poi te le scarichi tu. Quindi non ci puoi andare tu a Chiesa. No, fino a settimana scorsa me li ho scaricati io, me li ho scaricati. Ma tu non puoi fare, io no, perché non c'ho, c'ho il computer ma non c'ho stampato. Sì, da cosa, se ce l'hai, lo metti in un pennino, vai che ce l'ho stampato, vai, te lo fai fare il foglio. Ma se no vai, da loro vai, domani e lo ritiri in domani. Fai io la doccia poi c'è così, vado lì domani me lo ritiro. Se no mi tocca fare troppo prassi, portare in cartoleria, insomma, e no, non va bene, dai. È meglio andare a ritirartelo e ce l'hai in mano. Sì, no, io quando vado là, io ho la stampante, me la scarico io direttamente. E ce li ho. A me mi arriva lo stesso, amici, tramite me, mi arriva lo stesso, anche se vado a ritirare mi arriva di me. Ma lo stesso giorno che la faccio mi arriva, che è pronto, capito? Sì, sì, no. Sono matrici. Molte volte le porto alla dottoressa, le ho nel telefono, le porto alla dottoressa e se le scarica lì direttamente. Ok, dai. Domani mi devo ritirare le altre medicine perché mi arrivano da Cagliari, con le lì, poi casino, mi dai. Ogni volta mi torna due volte i farmaci. Sì, se tanto ne devo ritirare io. Gli ha dato, mi chiama la farmacia, guardi che abbiamo le medicine che deve ritirare. Ancora, andare il ritiro. Ormai sto camminando alla farmacia di lui. Ma ti ne dimentichi? No, molte volte la dottoressa le manda a me, le manda direttamente alla farmacia. La farmacia mi chiama, guardi che la sua dottoressa c'ha, me gli ha mandato dei farmaci, va bene, la sto venendo a ritirare. Ecco preso. Perché sono papà e ciccia, magari c'hanno un guadagno, se mandano alla farmacia direttamente magari loro hanno il guadagno, capito com'è la storia? È così, perché praticamente gli fa vendere più medicinali, quindi normale che c'è sempre di sotto qualche cosa, è normale. E adesso vediamo a fine mese e vediamo se riesco a beccare un diabetologo, speriamo, ad essere fortunato. E mio è bravo, ha un caratteraccio, però è bravo. È bru- dici che va via io, abbiamo un caratteraccio, ma era bravo. Infatti ultimamente mi aveva già mandato la bacchia, mi aveva già mandato. Ma la dona bacchia, io comincio a pigliare, io comincio a pisciare un bel. No, io mi sono accorto che stavo dando un po' di numeri. Mi aveva fatto provare col sensore che ci mette nel braccio, no? Poi cosa ha fatto? Mi ha dato gli occhi con quel sensore. Io con il sensore ce l'avevo, l'ho usato, però quel sensore lì è fatto per portarlo al braccio, quindi di strisce te ne danno poche, quindi non mi sono bastate. Ora ho dovuto telefonare, mi sono dovuto far fare un altro piano terapeutico. Ma te ci stessa a me, mi ha dato un piano terapeutico da 25 strisce, ma non mi bastano, e me l'ho dovuto mettere a 3 mesi. Infatti sono salito su e mi sono fatto fare un altro piano terapeutico per le strisce. Ma questo ha fatto casino. Praticamente io c'ho dottori che stanno a non alzare, anche il mio, cazzo, io ho 10 medicine e andando a casa te ne mancano 2 o 3, cioè proprio quelle che non c'è nemmeno una pastiglia. Allora devi telefonare e mandarli lì e mandarli su WhatsApp il messaggio. Poi, non è che ti chiede scusa, ti manda le medicine, non ti chiede manco scusa. Ho fatto così. Oh, come ce l'avevo io, Francesco era bravo. Pure se mi dici la cosa, lei c'è la troppo alta, a 134 alta, ma non è alta a 134, ma mi aveva detto adesso, mi aveva detto che non era alta. Tu mi dici sempre che era alta. Ma sai a me cosa mi ha detto? Una volta che ce l'avevo a 150 mi ha detto era alta oggi. Cioè a me preghi che è sempre così, perché ci sono persone che a 200 non riescono a scendere, capito? Questa volta dice magari ha mangiato qualcosa in più, è capitato, ma non è quello il problema, non è quello lì, mi ha detto, già si risolve là. Oh, a me si arrabbiava un bel. L'ultima volta che sono andato, si è portato lì, ha mandato le ali, si è portato lì. Ah, ma dice, cosa ha fatto per fare così, essere quasi tutto normale? Ha detto, nulla ha fatto. Mi è capitato così, ed è tutto normale. Ma che andare tutto normale, ci buoni arrivi, avano per aggiungere. Io ce l'avevo uno, Fulvio, all'Allina, che era di una bravura, poveraccio, era magro, che ha avuto 3 infarti, alla fine si è dovuto andare, e mi ha detto, se non me, io non è che mangi, ma è la gente che mi fa nervosire, mi assillano quando io esco per chiedere a chi tocca, tutti mi vengono incontro, mi assillano, e alla fine poi uno si stressa, capito? Infatti così, no, adesso speriamo che me ne organi uno abbastanza bravo, che era manco così riesco a tenermi un conto. Fulvio era cliente di mio padre, conosceva bene mio padre, mia madre, eccetera, e mi diceva, come ti devo dire, se sei su o in italiano, ci vai già tu. Francesco fa vedava il saggio, fa vedava, ma di volte mi diceva una cosa in saggio. Io già non capivo lo stesso, ma ha detto, o me lo dice in italiano o me lo dice in sassareggio, perché il saggio non capisce poco e nulla da giudicare. Si è arrabbiato. Ma io già lo capisco, non so anche parlare, qualche cosa la so dire. Però preferisco che mi parli in italiano, dai. Il sardo c'ha delle parole che magari non capisci. Per dire, oggi questa mia amica che è continentale di Torino ha voluto cantare Faccia di Duda, ha detto Gianni ti faccio una sorpresa, e lì ti canto Faccia di Duda nell'app dove cantiamo. Si è cantato Faccia di Duda, ma dai, dai. Non c'era la parola azzeccata, poveraccio. Che non c'è più di chi, sono saresi, ma cadono il legumento giù. La presa non molto mi faccia di due, lo canta tra diversi questi, dove ci sono tanti continentali, e le piace un me, si mettono a ballare. No, ultimamente quando sono salito su c'era questa qua che era pakistano era, ma capitava, vabbè, italiano capitava, ma un bel nipote mi diceva la cosa in pakistano, ha detto cosa ha detto, se deve stare gli usci di pizza, ma che un bel nipote girare il gambo e fare il pakistano qui. E beh, ti viene spontaneo, capito? Quando sei nel corso ti viene spontaneo a parlare la lingua tua. Anche a noi a volte c'è qualche parola sassarese, magari parlando in italiano ti c'è qualche parola sassarese, capita. Infatti capita, sì, ma non vedevo chi ma baita e se buon arrivo e tu vabbè, non è nulla, cerchiamo di capirci, cerchiamo di capirci, vabbè, è così. E tu mai l'hai sentito? No, oggi deve da sé non è entrato, vuol dire che va gente o non ha gana. Vabbè, magari cada volta uno non sta bene, non ne ho voglia di entrare. Io c'ho sempre questo dolore alla gamba che mi hanno operato, che se non ho giocato con la B. Mi stava passando, non so cosa mi succede, quando cammino mi si allibra il dolore. Invece se sto fermo seduto mi va di mani. E adesso sto toccando una cosa che fa tic-tac, tic-tac, proprio dove c'è l'operazione. Fa un rumore tipo come un nervo accavallato, ce ne presente? Sì, che non c'abbia il nervo accavallato lì e come lo tocchi si sposta. Sì, è così. Cioè come lo sto toccando, adesso fa tic-tac, come lo tocchi. Ed è proprio dove c'è la giuntura della testa del femore, capito? Adesso vediamo un po', se mi passa, se no devo fare qualche lastra, ma io voglio evitare fare queste lastre che fanno male. Devi sapere cosa c'è anche. Ecco cosa è, certo. Non sono mai di gozo, ogni tanto mi voglio sempre qualche cosa del muovo. Boh, chissà, non passa. Vai a stare tranquilli, a dire una vita tranquilla, vai in pensione, che non mi rompa le scatole più nessuno. Purtroppo è così, purtroppo queste cose sono così, basta un nervo, una cosa cavallata che ti fa avere dei dolori atroci, dolori fortissimi. Sono voi rimanere tranquillo senza nulla, senza cosa. Devi fare guri dolori e ogni tanto vediate che cosa lì ha fatto rubassare. A me quando sono salito gli avevo chiesto delle pastiglie per non me ne ha potuto dare, per lei c'è questa pastiglia del cuore che sta prendendo, non gliene posso dare altro. Vabbè, continuiamo così. No, gli altri dolorifici vanno in contrasto, se prendi le pastiglie del cuore non te le può dare, no. Che ti stavo dicendo che io sono andato una volta, non ho tupidico, mi sono fatto fare un esame e mi ha detto che sono tupidico, ho voluto vedere l'astro che avevo fatto e mi ha detto che deve fare ginnastica, ma non poca, no, ne deve fare molta, perché se lei non fa ginnastica gli si stanno praticamente calcificando le ossa. E infatti infatti con lui sono andato a fare l'operazione e mi stanno cercando tre robette per l'altro per farmi la pillulare. No, mi appunto 5-6 volte, lo trovavo al punto dove entrava l'ago, non entrava l'ago perché era calcificato. Oh, fatta, è brutto mi quello. Ce ne ho, te coprono dove ci sono le vene e tutto, dice. È brutto, eh. Cioè, no, no, meglio rimani come ti sembra, fa movimento un bel. E tu ne devi fare parecchio allora. Quel movimento lo faccio, tu. Io esco anche col cane, tu lo sai col cane passeggio molto, anche a volte mi tira, vuole correre, anche qualche corsettina me la faccio, no, non si lunga perché lui c'ha 4 zampe, io 2, e quindi un pezzo te lo faccio fare, dai, tanto per accontentarlo, poi gira un capo come si dice, beh, andiamo ancora. Se ti do quello mio, se non hai canale ganaglia ti dirà Edo. A me lasciati, fare male, non abbia gara di camminare, ecco, ho cominciato a tirare, a vedere se ti è passata la voglia di camminare. Allora mi piace correre, infatti ogni tanto vogliono sguinzare gli altri, ma non lo puoi fare, se ti trovano senza sguinzare ti mettono la multa, come hanno fatto un amico mio. C'ha un cane, c'ha un cocker nero, che quando ti vede salendo in questa una meridiana lì, ti viene incontro, ti fa le feste del tuo gatto, e lui lo lascia libero, è bravo con tutti, fa le feste a tutti. Beh, non è molto la usa perché è senza guinzaglio. No, io già c'ho qua di fronte, c'ho una specie di pezzo verde, lo lascio dal portone, attraverso e va lì, e si buona a correre come ti vuoi, si buona a correre. Ma se passano le guardie di zufile, la forestale ti mettono la multa. E perché non c'era questo verde? Vennaggio in via Bonova, non so se tu sei dove, via Bonova, c'è tutto il pezzo con l'erba, tutto, ma grande però, se sono passati dei cinghiali, si è messo a bagliare e te, ma me ne manca accorto, mi giro c'erano 8 cinghiali, alle 9 di sera, 8 cinghiali, c'erano grandi e piccoli. Certo, no, io qua, prima che non entrare mai, non entrare. Certo, andiamo, molto di babba per entrare la polizia, penso un poco. Si entra in guai. Non entrano per niente, no. 35 anni. No, passano i dritti, passano. E boh. Poi mi hanno fermato 3 volte, mi hanno controllato il microchip del cane, tutto l'altro. Solo che il cane non li fa avvicinare, mi danno la macchinetta a me per controllare, se non li ringrazio. No, a me, ma è venuto soltanto di fronte alla chiesa, lì stavano scendendo, si sono fermati e mi hanno controllato, dice libretto c'ha, no, lo lascio a casa io libretto. Ma hai controllato il microchip, e poi mi ha detto andare, ha detto arrivederci, mi state bene, se ne sono andati, boh, chi sa di solo e boh. Che cosa la fa? Ora si porta tutto il libretto, tutto quanto appresso, ma il microchip risolvono a tutti. Infatti, l'hai controllato, dice Bobo, no, non ci interessa più nulla. Arrivederci, maledetto. Mi state bene. E me ne sono andato. Ma quel microchip l'hai controllato? Sì, no, il microchip mi ha controllato, giuro. Da lì sanno tutto. Quindi, e se ne sono andati. Deve essere che erano in buona impresa. E la macchina verde era? No, la macchina bianca ci aveva, con la scritta guardia del zoofito. E allora un altro gruppo, perché ce n'è uno che ha la macchina verde, tipo quello della forestale, così, come lampeggiante, tutto. Sì, chi sì. Sì, sono andato qualche volta, entrami. Però, quando entrano, non gane sopra, è un bugiuro. Pensa un poco. Ma se tu sei andato con la cellulare meglio, io devo mettere, a me mi ha detto che devo mettere la bucellona, perché si sono avvicinati in 3 in borghese con questa valigetta 24 ore, siamo venuti verso il muro, perché io ero proprio lì, in via paura, ci sono sicuro dei mormoni che qui stanno uscendo dal portone di casa e ci sono venuti in tre. Il cane è normale che quando vede gente che va contro il padrone li ringhia, li ha ringhiati, e mi ha detto questo cane è pericoloso, deve avere la mungerura. Ha detto guardi, il cane è tranquillo, siete voi che vi siete posti male, siete venuti in tre contro il cane, non vi conosce, per cui è normale che il cane reagisce così, un cane la guardi. Ma me va già una preoccupazione di se si avvicinano le basi alla gola. Dice bravo questo cane. Allora si avvicina con tutti, specialmente con le donne. Con le donne me ne so da sopra. E già vabbè, lei ha portato in piazza così si morti. Ah, cognome è un po' diffidente. Oh, se ti conosce ti faccio di vista. Oh, con le donne ne diventa innato subito. Gli fa le feste subito, gli fa. Perché vanno ad odore, lo sentono quando le femmine sono maschi. Vanno ad odore. Anche se hanno il ciclo le donne, se ne accorgono subito. Agli c'ha la gambera che è abbassata, agli c'ha gli abbassenti, si è avvicinata e ne è brincato in tanto, agli dai, agli tu, non ci posso fare nulla, maschio, cosa gli devo dire? Va bene, se lo vuole rimorchiare, se lo porta in piazza e si avvicina alle donne te le rimorchia. C'è una ragazza che ogni volta fa già un giro, si fermava e me lo fa già, me lo fa già, detto, oh, guarda, preferisco passarci più qua, anche se no tu me lo vai ad altra cosa, me lo fai, così me lo fai, non riesco più a tenerlo. Poi c'era una ragazza, era con un ragazzo un giorno, e te c'era piccolino, quando l'ha visto, ai quanto è buono, comincia a baciarsi, ai anche profumato, quanto è bello, ma lo vedi, come? No, un peso brutto, guarda, lo pago bene se me lo vendi, no, non lo vendo, è una cosa mia, non lo vedi mai. Io ho pagato poco, però ho avuto fortuna perché quelli mi vendono 1200 euro, che carini. E io ho avuto fortuna, ho trovato uno che non era riuscito a vedere tutti i cuccioli, ne sono rimasti due o tre e io ho preso a Tyson. Va più bene. No, io un sacco di volte che quando vedo che c'è lì, se ne brucio una specie di profumo che non ti puoi manco avvicinare. Allora, io ne ho detto di ciò e sono lontana. Ha detto, ecco, ha detto, ecco, ha detto, ecco, ha detto, il prutto che ti profumo, il prutto. Io non accorrentevi. Allora, certo, mi sono avvicinata sempre, me lo fa zia, a me fa me lo fa zia. Allora, gli ha detto, il tuo profumo, ma che è dubbiati che c'è un profumo, pensa un poco. Ma ci sono quelle che sono molto, che un ragazzo se la guardava, ai quanto è buono, dai, prendimelo, cazza, mi ha toccato il braccio, dai, ti prego, prendimelo, mi piace troppo. No, una vivra giù da sopra a pucciarla a passeggiare, ma mi vengono le guardie se uffi, e ti hanno fatto una multa che la gente senza la guinzaglia, agitati perché l'hai lasciato senza la guinzaglia, ma adesso te la paghi, peggio batte. Non guarda nulla, perché per dire è carina, il cane, questo amico mio è bravissimo, fa le feste a tutti, però loro non lo sanno, quindi ci vedo senza guinzaglio, ma non mi piace, perché è una legge, se ti metti un guinzaglio, tu basta, non è come quelli di correre, ma il prato non puoi lasciare, no, è così, se sei campagnatore, se tu sarai, non va bene, ma se no non puoi farlo. io gliel'ho detto, non lasciarlo senza guinzaglio, perché se lo porti in giro così lo devi avere con il guinzaglio. No, non morsica nessuno, molto bravo, però devi tenerlo a guinzaglio, anche se no ti pagherai contravvenzione, infatti, l'ho lasciato senza guinzaglio, se l'ha rimborso la multa. Ah, gli ho detto, già per te che l'hai mollato tu, te l'ho detto io, tu l'hai lasciato senza guinzaglio, non si allontana e né nulla, però devi tenerlo a guinzaglio. C'è uno vicino a casa che lascia il pitbull senza guinzaglio, lui va preso, però è abbastanza educato quel pitbull, solo che non sa com'è. Basta che gli lascia a capo, ma che cosa è, ma con te la cura, è un fulmine, non riesce a fermarlo, è un fulmine. Io glielo ho detto, io devo uscire dal portone, mettimi il guinzaglio e lo abuserò a quel cane, punto, ma non fa niente. Non so io se fa qualcosa, tu gli devi mettere il guinzaglio e bucerlo, è pericoloso. Infatti, io qua ce n'era uno che lo teneva sempre senza guinzaglio. Ha pigliato, ci ha fatto un muro di cucciucci. E per fortuna che ho preso, ho mollato il mio e l'ha fatto rimanere fermo un cane. Perché so che il mio cane, quando vede cani piccoli, le trema che quelli lì, ha tirato filmato, ha pigliato il barugodo e l'ha filmato, il madrone si è arrabbiato, ha giocato con un pugno, un padrone, ha detto, prossima volta mettigli il guinzaglio, perché se aveva fatto qualche cosa al cane, tirava via tutto a barra, tirava via tutto. Ah, mi sono incazzato due volte con un fisso. Ha detto non vi viene più a Enoca, che c'è la prossima volta che non vuole vedere cosa ti posso fare un cane di lui. Ha pensato non vi giunto più a Enoca. Ma è gente che non riesce a gestire il cane, capito? Il cane per gestire deve avere il guinzaglio, punto. Se non lo gestisci è sempre pericoloso, devi mettere anche la museruola, perché nel guinzaglio ti può scappare lo stesso. Il mio ha rotto il boschettone mia a me, perché ho visto un cane che lo stava aggredendo, mi ha spaccato il boschettone per poco, cazzo meno male, me l'ha fermato una ragazza che lo conosce, che è riuscita a fermarlo per la pettuita, se no la mia cazzata. No, questo ragazzo qua veniva qua, no. Nel giardino lo mollava, perché ci andavano i cani piccoli, ci andavano, no? Pigliato il barugudo, e se ci ha vedere, ma no che la prossima cosa che ti ho detto a ammullarlo, ah vedi se sei, cioè, non ho aggiunto più uno, ma l'ha pigliato il barugudo che ti ha tritolato, ah vedi se ha fatto qualche cosa. No, il mio se vede cani piccoli ci gioca, anche con le femmine gioca. E anche con i barboncini, anche se sono maschi ci gioca lo stesso, perché sa che sono giocatori lui che non sono pericolosi, se ne accorgono che gioca, col barboncino gioca. Ah, infatti con quel cane lì che era piccolino, lui ci gioca parecchio, adesso è diventato un po' grandetto. È più yoga, è sempre più yoga con Edo. Oh, non vi dugare che non serve più più. Ma ci sono che avrò un cane per cui a mare, per cui. Il giorno, quei giorni lì stava passando le guardie d'ottica e una lì l'hanno filmato. Non so quanto va nel bocio di multa che dice la gente a museruola. Cioè, gli hanno detto di tenerlo vicino a casa sua, l'hanno detto. Di allontanarsi da lì. E ci sono quelli anche che ti hanno usato i lugari. Perché io amici voglio zuffere che ci sono persone cattive che ti usano il cane, guardi zuffere, li fanno musicare. Ha pure a me l'hanno fatto, guardi in via Pascoli. Io ho fatto, pigliato, ho già fatto. Se vanno che te li trozzo, Lugani. Io non è un verso di Ruggero. La delugare la camera, ma sono qui a fare la museruola. Andate su uscì. Si sta assurzando. E una volta mi appassuri, questo qui va al bar, in quel bar che c'è dopo il fornitore lì. Praticamente era legato il cane fuori, io stavo passando e mi si stava mettendo il cane, era legato, però legato male, cazzo, stava quasi sciogliendo. Già lo conosco quello lì. Chi ci ha messo avventato un cane a me? So che non mi ha fatto nulla, che da voi mi conoscia. Si è portato a giocare a coso. Ah, di viraggio guado, viraggio Lugani, mi riesce a vedere. Esce da fuori, ah, mi hanno curato Lugani, ogni assurdo un affiliato. Ma te l'ha detto, così impari alle TV. Ma non voglio più che lo rende in occhi, guarda di zero. Faccio mai già farrami. Vicino a casa è successo un casino per un cane legato così, mi fugge il palo, il padrone è entrato a fare la spesa. Stava passando un signore col cane e ha visto che c'era quel pitbull e si è andato all'altro marciapiede dove c'era anche il cassonetto. Questo pitbull si è slegato, è andato verso il cane suo, lui l'ha messo sul cassonetto per non arrivare, invece il pitbull l'ha preso, l'ha buttato in terra, l'ha bigliato alla gola, ha detto che gli ha visto due che uscendo fuori. Meno male che c'era un ragazzo che stava scaricando lì nel supermercato e l'ha aiutato, però quando l'hanno staccato si è avventato al padrone, ha morsicato anche il padrone, ha fatto una bella ferita, questa ferita non si immaginava, è andato a denunciare, tutto non l'ha ribattuta, ha detto che quando la denuncia una sola non possono fare nulla. Sì. Io invece di Samaria che non avevo i soldi che sei proprio cani feroci e coso. Nel meglio è per stranguleggio io. Perché sotto dove prendere e dopo se farli soffocare il cane. Sotto, quando glielo stringi forte, si soffocano. E ti farà come te nulla di fare. E come noi hanno la più uguale di no, è normale, non passa più il sangue, l'ossigeno non passa e soffocano, e muoiono secondo quanto li stringi. E a Pantolone è successo che questo principe l'ha morsicato, questa bambina l'ha presa per il braccio, c'era un signore, l'ha avuto un cagnotto sopra, ma cagnotto, ma in alto la lunga, l'ha fatto svenire e fare, mi ha ammazzato il cane. Ma lei doveva ammazzare, c'era visto cosa c'aveva, il bambino con la ferita a casa del braccio, un bambino piccolo, 4 anni c'aveva, la ferita nel braccio, a casa lui pensava ad urlare, lui poi non l'ha ammazzato, l'ha fatto svenire e basta, perché lui mi ha detto che c'ha un mantello che è addestratore di cani e gli ha spiegato tutte le tattiche come fare, capito? Io a me al latte dolce nel giardino del latte dolce mi è successo una di che questo pitbull si è sciolto da un commissario di un padrone e ha preammorsicato questo ragazzo qua, penso che andando io non voglio ammollarlo, andando io vi raggi il Trento fino a soffocarlo ed è svenuto il cane. Questo è per prenderlo e tirarti da barre a Giovazzo. Il cane lo devi tenere al guinzaglio come si deve, non questo guinzaglio che c'hai. Aspetta, faccio un mese, ti denuncio, mi è morto il cane. Vai, tenete, esatto il culo a barri. Portatelo via immediatamente. Ti sono giunti, c'erano i carabinieri vicino, li ho giunti, ti hai fatto una cosa che non mi hanno detto. Dice adesso devo pagare anche le cure a questo ragazzo qua. Se dovesse rimanere rimanere qualcosa ti faccio pagare tutto. Cazzo, si sono girati i carabinieri. Ma giomai non per imparare. Ehi, io ho visto il pezzo di terra del cane che si stava razzuffando. I vigili urbani hanno fatto la pistola e gli hanno detto che se non li staccavano dovevano sparare perché facevano pericolo per le persone. Loro sono sempre di quella maniera, però loro non ti dicono, non ti fanno delle cose. cioè c'è da ammazzare il cane, te l'ammazza. Non guardano nulla, no. E io i tipi sapevo come toccarlo. E ve l'ho fatto svenire. Poi sono intervenuti loro e mi hanno fatto, lasci perdere, ci facciamo noi adesso. Poi hanno fatto una bella multa. Ha inviato a Lugani, ha inviato, ha attaccato un canale, ma tenerlo fermo. Certo. Tanto che dei gozzi. Faccio un bagaglio, invece un bagaglio. Io poco ho trovato un pastore tedesco con tutta la catena attaccata al collo, c'aveva il collare con la catena e un bel pezzo lungo, c'era stato due amici, catena presa. L'ho preso e l'ho legato a un cancello, l'ho chiamato le cose zuppide. Era bravo, si avvicinava, si faceva accarezzare tutto. Ma bello lì, bello, un bel colore, quel colore proprio rossiccio, bello. Ci ha fatto le cose zuppide, avevo preso il microchip e sono risalito al padrone, avevo chiamato via radio. Sono salito al padrone, il padrone è venuto, non ho presente, c'era la macchina da Formula 1, sparato, cazzo. E che tu burrete? Dice, scusate, mi è scappato, signore, la prossima volta, questa volta ne faccio, la prossima volta che noi troviamo il cane così in giro, la mettiamo la multa. Sì. Lavoro dedicato. Sono guai, sono, se ti trovano che ti scappano e cose, non deve scapparti il cane, lo devi tenere, bene, lo devi tenere. Infatti da coso, molte volte, da sé canto una ciappa un bel, che fuggeva un padrone. Il padrone del coso, la ciappa in mani fritti, si scendono. Una volta stavo passando con te sul marciapiede, vedo questo pizzo con casa va andando incontro, come te la giubiccio, ha già stato l'acca, poi così la vado da lì, invece si è avviato, come ha visto così si è avviato. Infatti, no, invece da me, io non vedevo chi, non c'è più niente, che li portano e bisogna che si tira a rega e va a fare la farra. A me mi ha già regato un roccio, mi ha già regato. Si sta pensando un poco poco, si sta rovinando le rocche, fa farra rogani, si vede che ha tenuto anche con il po' di roccia a capo di culo. No, rogani no, a te il culo. Hai visto che le cose si sono avviate. Per arrivare a gare va a farla farra. Ha detto che poco poco ci ha messo le guardie di Europa. E poi lo vedi cosa ti succede. A vedere se ne sono andati immediatamente buro. Se ne capita di quei cani del Caucaso, hanno proprio da fare i macchi, si mangia e due lugari. Sì. Guarda, non ti costa nulla, nel mio cane. Non si azzuffano. Se andare a godo, te lo biglia a godo e te lo fai vedere cosa ti fai. E poi ci biglia pure a te si biglia. Ma chi sei tu, Romaro? Ah, lì invece la già tu, che altro regala un cane ai nonchi, fa farla a farra. Ha detto, se vanno ai nonchi, torna con un cane. Fa farla a farra, ti con un roccio a capo di culo. Faccio vedere cosa c'è, tu ti fai tutto un capo a bumbuglioni, ci sono tennati, altro che ci sono andato. Tu, ci sono persone che lo fanno apposta, non so, ti avanzai ma fa farà. Io cerco sempre di evitare, come ne vedo con qualche pitbull, con quei cani similari, tipo quello di Mussolini, che si assomiglia a me un bicho. Cambio marciapiede, cerco sempre di cambiare strada, solo che quei cani ti puntano e Tyson non è macco, la bagia, un peso, si incassa, si ringhia, lì si mette in un bello dritto, perché a farla loro vuole, però io cerco sempre di evitare, capito? Come faccio io? Romero, non sei alza Romero. Alza Romero dritto dritto. Si la baila. E io lo tiro. E cosa per farlo? Oh, al padrone gli dico, cerca di portarti. portalo via da qua, parlava dove sei venuto, che non ci fai nulla con quel cane lì, e se mandami, l'unica cosa che faccio io così. Allora la roba del mio pazzo se ne è andata via da qua, perché stava bene il portone con le chihuahua, il chihuahua ci aveva in braccio e praticamente stava bene il portone, questo è un pitbull che quando l'aveva senza guinzare è andato correndo e gli ha strappato l'abbraccio il cane, ce l'ha portato lontano, ha fatto tutto a pizzi e questa signora dallo shock se ne è venuta a dare, non c'è venuta più stare qua. Sì, il padrone aveva fatto a pizzi, aveva fatto a pizzi il padrone, io che l'ha lasciato libero, l'aveva tutta qua i piedi roccia a capo, aveva visto, si l'aveva dentro, vedete le cose, poi aveva fatto che da maniera proprio da con i figli lucani, no? E il padrone, il marito, voleva scendere a tirare una misura, e lei che l'ha fermata, che se lo tirava, questo era un poliziotto, era un maresciallo di polizia. Lui ha ammazzato, però vabbè, sono cose che magari se non ti controlli quando c'è un'arma così, cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe una di quelle pistole elettriche, di quelle tele, quando si avvicina qualche cane così, ma si attirano con si avvicina e cade in terra. Sì, ma non lo puoi portare, non lo puoi tenere, no, con la pistola lì, ecco cosa è, anche se la pistola elettrica no, non si butti lì, io l'ho fatta la mani, l'ho fatta la mani, sì, aiuto con i piedi roccia a capo, se ne sono andati immediatamente, se ne sono andati, ma lì hanno visto i carabinieri, hanno visto i bicicletti. Andavano apposta lì per fare il cane, ma andate lì vicino e andavano ad una pistola, ma è buttata a rogare, dice cosa devo farvi, devo uccidervelo o cosa vi devo fare, ha minacciato, non mi sono più tornati, no, che sono rimasti vicino a casa Eddie, sono rimasti, infatti non mandare mai nessuno di chi si gana. E per io ho notato c'erano tutti gli spacciatori tossici e di solito parlavano che i cigani venivano pure i luminori, qua è così, e c'erano tutte queste agenzaglie qua, capito, per difenderli, e allora si prendono questi cani qua. Sì, ma devi già dare attenzione alle robe, che se c'è più un burro di gabbo, ti farà, c'è a rogare che a te ti farà, certo, e poi c'è la riga, c'è con un gabbo, hanno invece, dovete indecisimi. Poi Gianni, io ti devo lasciare che mi devo pigliare i bacchini, ci risentiamo alle prossime, ciao, stammi bene. Ciao Tony, vai. Mi ha fatto piacere, te lo stavo per dire io, perché per te è tardi, io sono già sceso col cane, quindi non ho problemi, ma per te è tardi. Va bene, dai, buon proseguimento, tutto, buona pastigliata. Ciao già. Ciao, ciao. E va. Chi è? Va, troioso. Ma non sei entrato oggi? No. Guarda, già, che ho fatto da panificio, sono andato a fare un lavoro, sono arrivato un bel stanco. Io tutta la sera che stavo campando, tutta la sera. Oh, yeah. Già famiglia dove a me, una droga è diventata. Ma qualcosa che mi hai mandato cosa? Quanto costa? Un bel. Cosa? Qualcosa che mi hai mandato quel regalo, un bel costa. Quel regalo? Un altro regalo lì. No, non costa nulla, basta fare i compiti e i regali ti li dà. Allora devi mandare i saluti alla famiglia, devi fare queste cose qui, capito? E poi i regali ce li hai, la conchiglia. No, il treno mi ha mandato. Cosa ti ha mandato? Oh, il treno. E vabbè, sono regali che accumuli così facendo i compiti, capito? Poi praticamente li mandi quando vuoi che diciamo che ha preso la canzone o come la canta la persona, ti mandi i regali. E poi ti possono mandare i fuochi, tutte queste cose qui, sono lì, sono.